get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Salve a tutte, eccoci ancora insieme per una nuova trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Siamo Pina e Caterina, scusate, del CLR, e oggi, come di consueto, rimarremo con voi per farvi ascoltare un po' di buona musica. Lesbica e non, ma sempre rigorosamente declinata al femminile. E per darvi comunicazione delle cose che ci interessano e che crediamo interessino anche voi. Prima di lasciare spazio alla musica, vogliamo abbandonare la nostra consueta modestia e farci da sole i complimenti per essere riusciti ad arrivare alla trasmissione numero 77. Nonostante gli scarsi mezzi tecnici e le ridottissime file che peraltro non ci hanno impedito di essere cocciute ed ostinate, come solo certe lesbiche inveterate sanno essere. Ad ogni buon conto, però, è noto che con l'avanzare dell'età gli sforzi si fanno sempre più pesanti e pertanto i vostri contributi saranno sempre più graditi. E quindi ancora una volta vi invitiamo a farceli pervenire secondo le consuete modalità: telefono, fax, piccione viaggiatore o qualsivoglia altro artificio atto alla veicolazione di pensieri ed idee. E a questo proposito non ci stancheremo mai di ripetervi il nostro indirizzo, proprio per essere sicure che non vi sfugga inavvertitamente. Perciò prendete carta e penna e siate lesti a trascrivere le magiche parole che vi metteranno in rete con le lesbiche del coordinamento lesbico romano. Via San Francesco di Sales 1B. Se volete raggiungerci telefonicamente, potete farlo allo 06 6864 201 il mercoledì a partire dalle ore 21, oppure potete lasciarci un messaggio in segreteria o spedirci un fax, tanto il numero è sempre lo stesso. Infine, quelle di voi tecnologicamente più avanzate potranno anche raggiungerci attraverso la madre di tutte le reti, al nostro indirizzo di posta elettronica clrbp@hotmail.com. E a questo punto, avendo sbrigato le formalità postali, non vogliamo annoiarvi oltre e vi lasciamo in compagnia del nostro primo pezzo musicale. Ed eccoci ancora una volta insieme. Quella che avete appena ascoltato era la bellissima voce di Cyndi Lauper che cantava True Colors, e ringraziamo anche dei Trillini, quindi questa canzone verrà rimessa dopo la trasmissione nel quarto d'ora. Ringraziamo anche chi ci ha avvisato che il microfono della sala di là era acceso, per cui abbiamo potuto eliminare il vociare di sottofondo. Quindi grazie, è un piacere sentirvi. Ed è un piacere sapere che ci sentite. Prima di incominciare con le notizie di carattere più generale, vorremmo informarvi di una situazione che ci riguarda più da vicino. Noi e tutte le altre donne che operano e che si muovono nell'ambito del Buon Pastore. Sapete tutti che i lavori di ristrutturazione dello stabile di Via della Lungara, che nel 1983 accolse i gruppi di donne che avevano lasciato la storica sede del governo vecchio, sono ormai terminati e che l'intero complesso è pronto ad essere consegnato materialmente nelle mani di quei gruppi e quelle associazioni che avevano portato avanti le trattative con il Comune di Roma e con le donne delle istituzioni. Sapete anche che la delibera di assegnazione del complesso è stata approvata dalla giunta comunale uscente giusto un attimo prima della sua caduta. Ma quello che forse non sapete è che il commissario prefettizio Mosino, dopo essersi impegnato ad esaminare approfonditamente la suddetta delibera, ha rifiutato di firmarla e di renderla in tale modo operativa. Allo stato attuale delle cose non possiamo dire di più di questo, dal momento che le motivazioni del rifiuto non sono state rese note dalla segreteria del commissario. Ma ci teniamo a sottolineare come, ancora una volta, dopo i casi di Bologna e Firenze, la politica degli uomini insiste biecamente nel sottrarre spazi di vita politica, culturale, sociale e affettiva alla comunità delle donne. È un evento gravissimo e fortemente strumentale che va ostacolato con tutti gli strumenti di legge e, se necessario, con il movimento delle piazze. Nell'ultima assemblea tenutasi presso il Buon Pastore è stato deciso di istituire un nucleo permanente per il monitoraggio della situazione e per la circolazione di ulteriori notizie ed eventuali strategie. Chiunque fosse interessata a partecipare o a saperne di più può recarsi al Buon Pastore o contattare la segreteria al numero 06 68 80 9723. Ora vi mandiamo un altro brano musicale, si tratta di Susan Vega con la canzone Marlene on the Wall. Even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. danger zone, and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all, as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me, I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. By the butcher shop with a sawdust room, don't give away the goods too soon is what she might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all, as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me, I'm fighting things I cannot see. And don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all, as she records the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me, I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Di notizie dal mondo. La guerra di Bosnia ha avuto inizio nel 1992 e si è conclusa nel 1995 con gli accordi di Dayton. Da quel momento le truppe occidentali della NATO presidiano il territorio bosniaco per impedire la ripresa delle ostilità tra serbi, musulmani e croati. Questo naturalmente non ha impedito il riaccendersi di nuovi focolai in tutta la regione balcanica. La pulizia etnica è stata l'alibi ideologico e strategico dei nazionalisti serbi per occupare le terre e attaccare le case dei musulmani. Gli uomini sono stati fatti prigionieri e separati dalle donne. Gli abusi contro la popolazione femminile erano diventati un autentico strumento di guerra. Oggi finalmente il Tribunale Internazionale dell'AIA lo riconosce. Infatti dal 21 febbraio la violenza dei miliziani serbi contro le donne musulmane di Bosnia è divenuto un crimine contro l'umanità. Il tribunale ha infatti stabilito che ridurre in schiavitù donne di un diverso gruppo etnico e abusarne sessualmente in modo sistematico è un reato contro i diritti universali di un essere umano e ha condannato i principali artefici e protagonisti del tristemente noto campo degli stupri nella città di Foča in Bosnia. Appena fino ad un massimo di 28 anni, non possiamo che trovarci in linea con questa sentenza. Ma vogliamo ugualmente sottolineare che lo stupro, anche se non sistematico, anche se attuato una sola volta, resta un crimine vergognoso a danno della donna che lo subisce, senza giustificazioni e senza scomodare i diritti universali dell'umanità. Notizia che viene dall'Italia. Non potrà passare da Piazza del Duomo il corteo previsto a Milano il 23 giugno in occasione del Gay Pride. La questura ha infatti vietato il transito nella piazza a tutte le manifestazioni politiche. Lo ha annunciato il coordinamento arcobaleno, promotore dell'iniziativa che, confidando nella buona fede degli interlocutori, smorza le polemiche e si riserva di rinnovare la richiesta qualora la Santa Piazza dovesse essere concessa per altre manifestazioni politiche. Il coordinamento arcobaleno inoltre lancia un appello affinché cessino le discriminazioni contro le persone omosessuali e a tali proposito invita fin da ora il futuro neo eletto sindaco ad unirsi al corteo del Pride per promettere di impegnarsi nella lotta alle discriminazioni. Il Giubileo dei Froci, seconda edizione. E dalla voce di Annie Lennox abbiamo ascoltato Sweet Dreams. Continuiamo con le notizie. La Regione Lazio esclude dai contributi le coppie di fatti e gli omosessuali. Storace ha cancellato una legge votata dalla precedente giunta Badaloni, varando un provvedimento che riconosce solo la famiglia fondata sul matrimonio, come indicato dall'articolo 29 della Costituzione. La precedente norma ammetteva invece un contributo per quelle coppie in cui fosse presente una persona anziana, svantaggiata o portatrice di handicap, e aveva applicazioni, seppure parziali, per le coppie omosessuali e di fatto. I 20 miliardi di finanziamento previsti dalla Regione andranno quindi solo alle famiglie riconosciute dalla Costituzione, quindi quelle regolarmente sposate. Il prossimo criterio sarà sicuramente il matrimonio religioso. My heart makes natural sounds with you. L'associazione Nodi e i nostri diritti, in collaborazione con l'Ufficio Speciale Immigrazione del Comune di Roma, ha aperto il centro di consulenza sui diritti delle donne immigrate per agevolare l'incontro tra donne immigrate, facilitare scambi ed iniziative sociali tra le associazioni di donne immigrate, per l'aggiornamento di operatrici e operatori sulla normativa e consulenza su casi giuridici che riguardano le donne immigrate a Roma, per informare correttamente gli operatori e le donne sui loro diritti per quanto concerne asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, consultori, ospedali, farmacie e ambasciate. Un gruppo di avvocate offre consulenza su casi specifici inerenti al diritto di famiglia, diritto allo studio, alla salute, la tutela dei figli, adozioni, casa, soggiorno, cittadinanza e dichiarazione dei redditi. Le attività prevedono anche uno sportello salute, oltre ad incontri gestiti da donne provenienti da diverse regioni del mondo, e corsi di aggiornamento per insegnanti e operatrici presso le scuole e i servizi del comune. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Miriam Fuentes e Pilar Saravia dell'associazione Nodi in via delle Zoccolette 17, il telefono è 06 6833 688, qui a Roma. L'associazione Donne in Genere, nata nel 1993 per sostenere e promuovere diritti e libertà femminili, è promotrice della campagna di informazione e prevenzione della violenza contro le donne. Una donna su due nel nostro paese ha subito nel corso della sua vita una molestia fisica o una telefonata oscena. 714.000 donne hanno subito uno stupro o un tentativo di stupro. 185.000 solo negli ultimi 3 anni, ma in questi 3 anni solo l'1,3% dei tentativi e stupri e solo il 32% di quelli riusciti è stato denunciato. Circa il 20% di questi stupri o tentativi di stupro avviene in strada, il 30% avviene in famiglia o in casa di amici. Per molti il fatto che un uomo picchi una donna, non paghi gli alimenti per i figli, richieda prestazioni particolari alla segretaria o le sussurri complimenti osceni, non è grave. Ma proprio questo è il terreno culturale della criminalità sessuale. E se di cultura si tratta, è necessario indagare le radici più profonde per riconoscere quali parti di questa cultura inconsapevolmente accettiamo e tramandiamo. Non si tratta di cercare le responsabilità individuali, ma si tratta del fatto che siamo nati, cresciuti ed educati in un mondo che alla violenza contro le donne ha dedicato un'attenzione così scarsa da non far sospettare la complicità. Queste sono affermazioni che Maria Cristina Lasagni fa in lezioni di donne alle istituzioni. Is the child of pain. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lines to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset pig. California, I'm coming home. Did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelettes and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California. Streets are full of strangers, all the news on your ear just give you the blues, just give you the blues. So I bought me a ticket, I caught a plane to Spain. To a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. They said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two, just until my skin turns brown. And I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news at home you read, more about the war and the bloody changes. Il brano che avete appena ascoltato era di Johnny Mitchell dal titolo California. Ed ora una notizia tristissima. Il campo di concentramento Uckermark venne costruito per ordine della polizia criminale del Terzo Reich nel 1942 e nel giugno di quello stesso anno cominciarono le deportazioni delle ragazze. Un campo di concentramento per donne. Alla liberazione da parte dell'Armata Rossa nell'aprile del 1945 erano prigioniere nel campo 1000 giovani donne di età compresa fra i 16 e i 21 anni, ma c'erano anche due bambine di sole 8 anni. Venivano deportate nel campo le ragazze che gli uffici dell'assistenza consideravano asociali e casi disperati. Per essere asociale bastava non essersi adattate alle norme del nazionalsocialismo, rifiutarsi di lavorare per loro, non vivere in casa con i genitori, avere parenti alcolizzati, ribellarsi o sfuggire alla opprimente assistenza sociale. Le ragazze che non si adattavano alla immagine femminile nazista venivano deportate nei campi di concentramento, sostenendo che erano sessualmente deviate. Durante la guerra la polizia e gli assistenti sociali intensificarono i controlli sui giovani. Frequentare locali da ballo liscio, uscire di notte, essere membri della gioventù swing, essere amici di ebrei o rifiutarsi di entrare nella gioventù nazista erano tutti validi motivi per essere imprigionati. Inoltre venivano deportate anche le ragazze i cui parenti militavano nella resistenza e quelle che si opponevano al regime. Sappiamo che almeno due ragazze delle comunità nomadi Sinti e Rom erano state deportate nel campo e di loro non si sa più nulla. Le condizioni quotidiane delle ragazze non erano molto diverse da quelle degli altri campi. Soffrivano la fame, dovevano fare lavori coatti per la Siemens o nel campo. Varie volte al giorno dovevano rimanere in piedi per ore per l'appello. Soffrivano punizioni arbitrarie. Inoltre era proibito parlare durante il giorno. Nel gennaio del 1945 i nazisti rimossero una parte del terreno di Uckermark e portarono la maggior parte delle ragazze al campo di Ravensbrück. La zona di Uckermark divenne un campo di sterminio, dove venivano traslate le donne più vecchie di 52 anni, quelle deboli, quelle ammalate. Molte di loro morivano a causa delle crudeli condizioni di questo campo. Le guardiane sottraevano loro alimenti e bevande per giorni interi, ma anche coperte, cappotti, così che molte morivano di debolezza. Altre venivano assassinate con iniezioni letali. Molte morivano nelle camere a gas. In tutto assassinarono fra il gennaio e l'aprile del 45 circa 5.000 donne. Dopo la guerra, i soldati dell'Armata Rossa bruciarono le baracche e costruirono edifici militari e fino al 1994 il terreno venne utilizzato dalle truppe degli stati del GUS. La comunità di Ravensbrück dal 1994 chiede che il terreno di Uckermark diventi parte del luogo commemorativo di Ravensbrück. Lights. Già nel 1997 si sono tenuti i primi work camp sul terreno ed è stato possibile trovare molte cose, come mattoni, scatole, siringhe, un cappello di bambola. È ancora possibile quindi rinvenire tracce autentiche. Alcune delle donne che hanno partecipato ed organizzato ad un work camp, per ragioni economiche gli scavi hanno luogo solo tramite work camp e così sarà anche in futuro, ci hanno inviato questo appello che adesso vi leggiamo. Antonio Samba led me to the Amazon. Sing a song forgotten for so long. And let the music. Questo è il tenore dell'appello. Vorremmo realizzare per l'estate 2001 un work camp sul terreno dell'ex campo di concentramento di Uckermark. Vorremmo invitare tutte le donne dei paesi europei a partecipare. In particolare vorremmo invitare le donne che collaborano o sono già organizzate con la comunità del campo di concentramento di Ravensbrück nel proprio paese. Siamo molto interessate a conoscervi e a scambiare le nostre idee. L'ex campo Uckermark si trova a 90 km a nord di Berlino, accanto al luogo commemorativo di Ravensbrück, che fra il 1940 e il 1945 era il più grande campo di concentramento per donne. Uckermark è pressoché sconosciuto. I nazisti lo costruirono per le ragazze e le giovani donne che non si adattavano al sistema nazionalsocialista. Dal gennaio fino all'aprile del 1945, Uckermark fu il campo di sterminio per le prigioniere di Ravensbrück. Noi, le organizzatrici del work camp, ci dedichiamo da alcuni anni a questo argomento, lavorando sul territorio con la speranza che questo tema assuma sempre più importanza nella vita pubblica. Lavoriamo con la comunità del campo di concentramento di Ravensbrück, delle quali siamo membre. Non siamo parenti di sopravvissuti dell'Olocausto. Da alcuni anni nella comunità si discute come continuerà il lavoro quando le donne anziane non potranno più svolgerlo. Per noi è molto importante continuare il lavoro antifascista, tenere viva la memoria delle donne di Ravensbrück e partecipare alla cogestione del luogo commemorativo. Una delle richieste più importanti della comunità, ma anche del Comitato Internazionale, è che il terreno di Uckermark faccia parte del luogo commemorativo di Ravensbrück. Con il nostro lavoro vogliamo che questo diventi realtà. Il campo di lavoro, scusate, si terrà durante 2 settimane fra giugno e settembre 2001, ma la data è ancora da stabilire. La permanenza potrà essere anche inferiore. Al massimo potranno partecipare 20 donne. Sono benvenute donne di tutte le età. Noi stesse abbiamo fra i 36 e i 41 anni. Alloggeremo vicino a Ravensbrück, Uckermark, in semplici alloggi e la cucina sarà a nostro carico. Faremo probabilmente lavori di scavo e di rilevamento. Abbiamo appena cominciato ad organizzarci e stiamo tentando di avere il maggior numero di contatti possibili con donne di altri paesi. Se conoscete donne interessate al tema, di altri paesi o città, date loro questo invito o fateci pervenire i loro indirizzi. Questa lettera è stata tradotta in tedesco, spagnolo, polacco, russo, olandese, serbo, croato, ungherese, inglese. Informateci rispetto alla lingua che parlate, così sarà più facile comunicare tra di noi. Faremo domanda di sovvenzioni pubbliche per poter finanziare il work camp. Vogliamo pagare il viaggio, l'alloggio, gli alimenti e anche le spese di partecipazione a tutte le partecipanti, in modo che nessuno rimanga esclusa per questioni economiche. Siamo curiosi di sapere quante di voi risponderanno. Scriveteci presto. E questo è l'indirizzo: